Addio Lugano bella, o dolce terra mia, scacciati senza colpa gli anarchici van via, e partono cantando con la speranza in cuore, e partono cantando con la speranza in cuore. Cavaliere Rai.